poco arriveranno i medici e i sommozzatori. Nessuno saprà dare spiegazioni. Qualcosa tipo un fulmine nel petto. Speriamo capiranno che ero contento. È stato sul finire di una gelida mattina. Camminavamo al parco senza meta. Un cane si è lanciato dentro il fiume. Gianluca non si è accorto che ero strano. Lo so che avrei potuto dire tante cose, ma certe volte cosa ci vuoi fare? Se abbiamo dentro un grumo di dolore e per disperazione. Occhi quella scena, quel quadro senza olio e senza tela. Pensare di star meglio a volte è peggio. Il buio va smontato pezzo a pezzo. Stupido cavallo che hai ceduto alla tristezza. Da quando hai visto un uomo senza testa. Da salvare, non potrà avere niente da insegnare. Lo so che avrei potuto dire tante cose, ma certe volte cosa ci vuoi fare? Se abbiamo dentro un grumo di dolore e per disperazione. Hai potuto fare tante cose, ma nella vita non si può mai dire. Se abbiamo dentro un grumo di dolore è per consolazione. Ho scritto una canzone.